24 mattino. L'Italia si desta. Tra 10 secondi sono le 7 e 15 minuti. Tempo di percorrere quest'ultimo frammento verso appunto le 7:15. Ecco, precisamente adesso, un buongiorno a tutti da Gigi Donelli, da Carmelo Lauricella in regia questa mattina, dalla redazione di Radio 24. Dunque siamo arrivati all'ultimo dell'anno, nonostante tutto, nonostante le profezie, nonostante le complessità di un anno che andremo a ripercorrere anche in queste giornate inevitabili, giornate in cui tendiamo a raccogliere gli eventi, a sollecitare la memoria, magari memoria di eventi che sono da una parte chiari, lucidi, eppure già così lontani. Pensate, un anno fa, tanto per citarne uno, il naufragio della Concordia, il 13 gennaio del 2012. Oggi diversi temi nel nostro appuntamento con 24 mattina, 24 mattina che si allarga, che oggi prende spazi in una edizione appunto particolare, in una edizione da ultimo dell'anno. Staremo insieme fin verso le 10, vari i temi, naturalmente, a cominciare come sempre dalla rassegna stampa. E allora da qui cominciamo. Naturalmente, se c'è una, come dire, se c'è un elemento che domina la scena di quest'ultimo dell'anno, e questo è abbastanza insolito rispetto alla tradizione, è il tema della politica, il tema delle elezioni che ormai si avvicinano, meno di due mesi, dunque da lì si parte. Allora noi cominciamo proprio con una lettura veloce delle prime pagine. I temi riguardano Monti, il no, le squadre, la composizione. Dunque per Repubblica e Monti, primo no a Bersani. Il Premier dice: non devo posizionarmi, nostra agenda chiara. Casini intanto attacca il leader PD ed è rissa Berlusconi, Maroni, insomma i fronti in movimento. Montezemolo intanto dice: non mi candido, ne farò il ministro. E allora è il primo no di Monti a Bersani. Non devo posizionarmi, dice Cordero di Montezemolo, annuncia a Repubblica che non intende chiedere nemmeno un incarico da ministro, e parla di vera e propria rissa Berlusconi Maroni sull'alleanza PDL Lega, naturalmente con tutte quelle implicazioni che riguardano le regioni, la posizione assunta dall'ex sindaco di Milano Albertini, le divisioni e le candidature che proprio la Lega in queste ore avanza. Bersani dunque litiga con il centro, invece per la stampa di Torino questa mattina. Monti dica con chi sta, e Casini invece ribatte, preferisce, Bersani il riferimento naturalmente, lo scontro con il Cavaliere. Il Corriere della Sera: tensione tra Bersani e Monti, il leader PDL solleva il caso Bondi e Casini parla di una doppia morale. Ecco il tema naturalmente della politica, e su tutte le pagine dei quotidiani questa mattina, in edicola di quest'ultimo dell'anno, naturalmente l'addio a Rita Levi Montalcini. Nostra signora della scienza, il Nobel per la medicina, aveva 103 anni, una vita davvero straordinaria. E per la stampa, che di fatto è il giornale di casa appunto per la grande scienziata, l'Italia piange la signora della scienza Nobel, senatrice a vita, e scrive appunto il quotidiano La Stampa: ha studiato fino all'ultimo momento. Abbiamo sentito come la curiosità sia stata anche nella parola, nella voce stessa, così particolare, così riconoscibile appunto del Nobel per la medicina, la curiosità sia stato il motore della sua vita. E allora per questo la scienza, l'impegno, una grande italiana, così sulla prima pagina invece del Corriere. A proposito di appunto di questa scomparsa, di questa grande figura, soprattutto oggi io credo che sia più opportuno in qualche modo ricordare la formidabile vita di questa figura che davvero ha attraversato il secolo, ha attraversato il Novecento e ha e ha sicuramente rappresentato anche un elemento formidabile di discontinuità, se pensiamo a quello che il Novecento è stato, al ruolo che una donna scienziata ha dovuto intraprendere, al fatto che come molti suoi compagni di studi della sua generazione sono stati anche vittime delle leggi razziali in un passato che sembra lontanissimo, ma che in realtà è sempre dietro l'angolo. Insomma, una figura formidabile. E allora mi piace magari cominciare proprio da qui per leggervi qualche riga del commento che Umberto Veronesi, dunque un altro scienziato importante del nostro presente, scrive oggi su Repubblica. E l'interrogativo è: che cosa ci lascia? Veronesi dice: con la sua immancabile e lucida semplicità, Rita Levi-Montalcini ci ha dato il codice per interpretare la sua morte e soprattutto la sua vita. Quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. Ecco, questo è il primo punto che riteniamo di questa scomparsa. Lo ricordiamo serena, circondata da persone care, all'età di 103 anni. A noi, prosegue Veronese, allora il compito di capire a fondo questa eredità per renderla eterna, superando il senso di perdita che prova oggi il paese, prova ancor di più chi, come me, Umberto Veronesi, ha avuto il privilegio di averla come amica, alleata in tutte le grandi battaglie della vita. Il primo caposaldo del suo messaggio è l'amore per la scienza, la fiducia incondizionata nella capacità del pensiero razionale di costruire il progresso della civiltà. La totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. In tal modo possiamo affrontare problemi che altri, più critici e acuti, non affronterebbero. Così Rita stessa ha descritto la passione scientifica, che dal dubbio come metodo porta al nuovo sapere e alla soluzione dei dilemmi. Ecco, questa passione che abbiamo sempre condiviso, prosegue Veronesi oggi nel suo commiato alla grande scienziata, alla grande ricercatrice, di questa passione dunque ci ha condotto a lottare per l'idea di una scienza al servizio della società, per la libertà di ricerca scientifica, per il sostegno finanziario e culturale alla ricerca, per il diritto di autodeterminazione della persona e le libertà di scelta che ne derivano. Il suo contributo personale all'amata scienza è noto. Ha ampliato la nostra conoscenza del cervello e del sistema nervoso, tanto da farle meritare il premio Nobel per la medicina nel 1986 per la scoperta del NGF, fattore di crescita nervoso. Ha dimostrato che il cervello è plastico, si può modificare, offrendo nuove prospettive per la cura delle malattie neurologiche. Ci sono immagini, ci sono fotografie di un passato della grande scienziata e davvero sono forse anche quelle l'elemento più toccante, perché veramente ci riporta per questo straordinario secolo raccontato attraverso la sua figura, anche attraverso le sue istantanee, avremmo detto una volta, gli scatti che la descrivono, appunto giovanissima, giovane studente, poi negli Stati Uniti, a capo di un gruppo di ricerca e poi insomma con quella inconfondibile, specialissimo look di una signora che oggi viene appunto celebrata di fatto dai quotidiani. Naturalmente c'è poi l'attualità che racconta tutta una serie di temi che andiamo a vedere insieme. Da una parte la stranità, per esempio, la stretta sui medici, basta con gli esami inutili. Questo viene oggi toccato, è un tema giustamente che viene affrontato ed è un tema importante, riguarda tutti noi, molti di fatto i quotidiani che lo affrontano, le cosiddette LEA, dunque le regole per la sanità stretta sugli esami inutili, ma intanto si afferma l'epidurale gratuita. Ecco qua, lo prendiamo dal Messaggero di questo lunedì 31 dicembre. Limitate le indagini molto costose, entra però il parto indolore. Entro il 2014 verranno sottratti 8,3 miliardi di euro al Servizio Sanitario Nazionale, una cifra davvero importante. Per recuperare quei fondi e per limitare gli sprechi è stata disegnata una nuova strategia del Ministro della Salute Renato Balduzzi. Primo passo, l'aggiornamento dei cosiddetti LEA, appunto i livelli essenziali di assistenza, cioè quello che entra e quello che non entra nel, diciamo, dovuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Quell'elenco di 6.000 voci in cui è scritto quali sono gli interventi, le visite, i ricoveri, le terapie e le analisi passate dal servizio. Si comincia lavorando sui livelli di assistenza non modificati dal 2001, prevedendo una stretta in grado di ridurre soprattutto gli esami inutili. Così un ampio approfondimento nella grande tema dei tagli e dei rincari, limitate le indagini molto costosi, controlli su almeno il 5% delle ricette, quindi viene rafforzato il meccanismo dei controlli, il riconoscimento anche di 110 malattie rare. Ne parleremo di nuovo in questi giorni perché è un tema davvero molto delicato, complesso, che tocca però migliaia di famiglie italiane. E c'è poi l'introduzione, la diffusione del parto indolore con l'epidurale, uno di quelle vicende in cui l'Italia, come dire, in cui si è sempre intrecciato il tema medico, gli interessi delle madri, la cultura, la religione, insomma una grande vicenda che è appunto sanitaria ma anche storica e culturale. Bene, con l'introduzione quest'anno dei nuovi capisaldi, ecco, dei livelli essenziali di assistenza, la diffusione con l'epidurale gratuita diventa un patrimonio diffuso. Questo per quanto riguarda l'organizzazione, ma c'è anche naturalmente la preoccupazione per quelli che sono i tagli. Allora Balduzzi, sempre dal Messaggero, dice: si tratta di una risposta concreta a molte persone e a molte famiglie che soffrono anche nelle difficoltà economiche. Il nostro servizio sanitario si dimostra capace di dare risposte concrete. Così il ministro della Salute Renato Balduzzi spiega l'aggiornamento deciso per i livelli essenziali e ribadisce che non sono stati previsti tagli alle cure. Il documento ora dovrà passare il vaglio dell'economia e l'intesa con le regioni, passaggio questo con i governatori che si presenta a rischio dal momento che coralmente hanno già detto di no. Ogni iniziativa di politica sanitaria, commenta il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, deve poggiare su risorse certe e sul risultato del confronto governo e regione. Vanno evitate iniziative unilaterali e annunci non realizzabili. Questo per il, come avete sentito, per il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani. Allora vediamo ancora qualche altro tema, poi torneremo ad approfondire. Naturalmente c'è come c'è da giorni una vicenda tutta americana, che è quella del fiscal cliff e della sfida di Obama: tasse più alte ai ricchi per rilanciare l'economia. Vi anticipo già che a partire dalle 9 dedicheremo il tempo che è appunto necessario a capire meglio questo passaggio, che è sì della politica americana ma che riguarda più in generale la ripresa e la situazione appunto economica internazionale. Altre notizie riprese dalle prime pagine di questi quotidiani dell'ultimo dell'anno, notizie che sono tristi purtroppo quelle che arrivano, e riporta il Corriere della Sera in prima pagina questa mattina: un altro massacro in Nigeria, uccisi nel sonno perché cristiani, all'assalto delle milizie islamiche, le vittime sono 15. L'attacco è avvenuto venerdì scorso nel villaggio di Musare, vicino a Maiduguri, quartier generale dei militanti della setta islamica Boko Haram, la forza jihadista più attiva in Africa. Tra poco riprendiamo da altri spunti delle pagine internazionali, ora però ci fermiamo un momento, la linea adesso torna in regia a Carmelo Lauricella. '24 mattino. 31 dicembre, dunque, siamo arrivati all'ultimo dell'anno. Con un saluto da Gigi Donelli, da Carmelo Lauricella. Ti dicevo di una, così, uno sprazzo, una visione, uno squarcio sulla pagine internazionali. Tanto per citare il Wall Street Journal, oggi cosa racconta in prima pagina? Beh, c'è una grande fotografia degli scontri che appunto attraversano le proteste, che attraversano l'India dopo appunto il caso drammatico della violenza carnale, della morte della ragazza, della 23enne di New Delhi, violentata e uccisa da una banda, di appunto di ragazzi. Questa è la prima pagina oggi del Wall Street Journal, che racconta anche, dedica ampio spazio invece alla caccia al tesoro in Egitto. Caccia al tesoro da una parte appunto del tesoro nascosto di Mubarak, tutto questo mentre la valuta nazionale precipita tra le preoccupazioni appunto di una forte svalutazione. Ecco, di questo 2012 sicuramente porteremo comunque con noi anche quello che è stata l'anno controverso, difficile, complesso dell'Europa, un'Europa che a un certo punto addirittura sembrava, e con questo intendo l'Unione Europea, non tanto l'Europa geografica, l'Unione Europea, l'euro, di un'Europa dunque che sembrava davvero sull'orlo del tracollo, che poi nel corso dell'anno riprende forza e velocità. Naturalmente ancora oggi sono soprattutto le critiche quelle che riguardano l'Unione nel corso di questa sua crescita, che nello stesso tempo è veramente l'apertura di una serie di cantieri su quello del bilancio, l'unione bancaria, l'unione economica più stretta e così via. Ecco, a questo proposito vi segnalo dal Corriere della Sera un commento di Sergio Romano. Il titolo già è abbastanza indicativo, dice: l'Europa del 2012 non è poi così male. I bilanci del 31 dicembre, scrive Romano, non come quelli delle aziende, la colonna degli attivi e dei passivi. Scritta in nero alla prima linea, direi della prima colonna, metterei l'Europa. So che questa scelta sembrerà paradossale e sbagliata, come parlare bene dell'Unione in un momento in cui la produzione cala, i consumi languono, la disoccupazione cresce e le tasse aumentano, ma ogni giudizio, dice Romano, è comparativo e lo stato dell'Europa mi sembra alquanto migliore di quello del dicembre 2011. Avevo l'impressione che l'Unione Europea fosse diventata pericolosa, una pericolosa combinazione di egoismi e vittimismi, di miopie e rancori, dice, però oggi il quadro è cambiato. E allora sui cantieri aperti, proprio sui cantieri aperti in Europa, vi segnalo un approfondimento che è di fatto l'agenda del 2013 e le sfide dell'Eurozona, oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine interne. L'anno decisivo viene definito appunto dal Sole, l'anno decisivo per il futuro dell'Europa a partire da una maggiore integrazione. E quando scrive il Sole che la posta in gioco è alta, si riferisce appunto alle cinque grandi sfide che attendono l'Europa dei 27, che nel corso dell'anno peraltro diventerà a 28 con l'ingresso della Croazia 1 luglio 2013. Le cinque sfide, i cinque cantieri sono appunto quello sul bilancio dell'UE 2014-2020, un bilancio pensate da 1.000 miliardi, che effettivamente, questo è un po' un classico del dialogo europeo, sembra una cifra, e lo è, una cifra enorme, di fatto è l'1% del PIL dell'Eurozona per 7 anni, quindi dipende sempre, magari a proposito di, come diceva Sergio Romano, ogni giudizio è comparativo. Ecco, l'1% non sembra poi così enorme per un meccanismo così intrinsecamente legato sempre di più anche alla nostra vita quotidiana. Ma dunque il bilancio lo è senz'altro, come lo è l'unione bancaria, la supervisione dunque alla BCE, ma anche questa unione economica più stretta. Il presidente Herman Van Rompuy dovrà presentare la nuova tabella di marcia entro il mese di giugno. Varon poi è, lo ricordo, il presidente del Consiglio dell'UE, quindi la più recente delle istituzioni comunitarie. Poi c'è il Grow Compact, quindi la questione della crescita, così centrale. Nel corso dell'anno i paesi europei dovranno portare avanti gli impegni presi al summit del 28-29 giugno per creare un habitat favorevole alla crescita e all'occupazione. Infine, le nuove regole di Basilea 3. È slittato infatti al 2013 l'accordo sull'applicazione sui requisiti patrimoniali delle banche. La presidenza irlandese dovrà dunque fissare una nuova riunione negoziale tra Consiglio, Europarlamento, Commissione, in cui verrà decisa anche la data di entrata in vigore delle norme. Questi i grandi cantieri europei. Vi anticipo già a partire dalle 8:15 avremo con noi un ospite, uno specialista di questa materia. Gli chiederemo magari di darci lumi sul percorso, su come l'Unione si stia davvero attrezzando per questi compiti che l'attendono. Eccoci qua allora, torniamo alle nostre prime pagine. La politica, PD e PDL, tiro incrociato su Monti. Bene, ritorniamo al clima elettorale. Questo che vi ho citato è il secolo XIX. Faccia dimettere il super consulente Bondi, non è più al di sopra delle parti. Il bersaglio dunque, come racconta il secolo XIX, oggi è Enrico Bondi, commissario governativo per il controllo della spesa pubblica, ma anche da qualche giorno super controllore sui nomi, i curriculum degli aspiranti candidati nelle liste di Monti. Su di lui si concentrano gli attacchi da destra e da sinistra. C'è un'evidente commistione fra le funzioni di un tecnico e i compiti di una forza politica. Così Fabrizio Cicchitto del PDL e in qualche modo fa eco a Pierluigi Bersani. Io ho molta stima e rispetto per Bondi, dice Bersani, ma sta facendo un mestiere, non può farne un altro. Bersani peraltro esulta per la partecipazione alle primarie, superato il milione di voti a metà pomeriggio di ieri. Questo naturalmente per quanto riguarda la parte tutta interna al PD. Ecco, sul quotidiano genovese c'è anche un articolo invece che richiama quella che appunto viene definita la polemica col Sole 24 Ore sul punto debole del Premier. Questa questione che riguarda appunto la risposta alla chilometrica replica a un articolo sui provvedimenti fermi che era stata appunto innescata da un articolo del Sole di ieri, è presente anche oggi sul giornale, su varie testate. Ma insomma, per farvene il punto, ve la ricordo appunto nell'articolo di Andrea Castanini oggi sul secolo XIX. Difficile, scrive Castanini, far perdere al prof il suo gelido aplomba anche di fronte ai peggiori agguati della politica. Berlusconi parla di complotto a favore di Monti e annuncia inchieste sulla nascita del governo tecnico. Lui tira dritto, tira innanzi con famiglia tra i canali di Venezia. Bersani alza il tiro sul suo braccio destro, Enrico Bondi, mani di forbice. Monti non si scompone, lascia che sia Casini a salire sul ring della campagna elettorale, per non parlare dei distillati quotidiani di veleno che piovono dalle parti di Brunetta o della Lega, come se non esistessero. Eppure anche i tecnici hanno una parte sensibile che, se viene colpita, fa scattare il morso dell'autostima. Non bisogna mai toccarli sulle competenze, scrive Castanini. Così Mario Monti, tra tutte le critiche presenti nella rassegna stampa ieri mattina, ed erano tante, si è sentito toccato nell'orgoglio quando è arrivato il Sole 24 Ore e ha scoperto che il lavoro del suo governo era finito sotto attacco. Il quotidiano di Confindustria è andato a fare le pulce ai provvedimenti del suo governo e ha scoperto quello che altri avevano già fatto notare, scrive il secolo XIX, cioè le grandi riforme annunciate dal governo Monti funzionano solo in parte, perché in molti casi mancano i provvedimenti attuativi. Ecco come in un grafico dettagliato viene calcolato che su 7 maxi riforme presentate mancano ancora 355 regolamenti e con la fine della legislatura l'approvazione sembra essersi fermato. Monti insomma ci deve essere rimasto parecchio male, a giudicare dalla chilometrica risposta che ha fatto pubblicare sul sito di Palazzo Chigi, intitolata "Precisazioni in merito all'attuazione delle riforme". Questo dunque per quello che è, diciamo, la parte montiana, ma naturalmente in questo così clima di ultimo dell'anno forse vale anche la pena ricordare quelli che sono alcuni dei protagonisti della politica nel bene e del male di questo anno 2012. Allora, come dimenticare Batman e le sue lettere dal carcere, oggi raccontate sull'Unità. Ecco Batman, fiorito ovviamente, ormai ai domiciliari, insiste sul sistema, racconterò tutto. I suoi avvocati, Carlo Taormina ed Enrico Pavia, hanno convinto il loro rumoroso assistito a una diversa strategia processuale. Fiorito alla fine ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato invece di affrontare un processo ordinario che, proprio in virtù delle intemperanze del protagonista, avrebbe scatenato un circo mediatico senza portargli vantaggi in termini di sconti di pena. La sua condanna, infatti, appare certa. Fiorito è accusato di essersi appropriato di 1.300.000 euro di soldi pubblici. Ha fatto man bassa a piene mani dei fondi destinati alle attività politiche del suo gruppo consigliare, senza neppure preoccuparsi di nascondere il suo operato, tant'è che tutti i passaggi di denaro dai conti del partito ai suoi conti personali, nonché i viaggi di piacere che Fiorito ha effettuato a spese dei contribuenti, sono stati facilmente documentati dalla Guardia di Finanza. Non capivo se la folla avesse bisogno di un simbolo a tutti i costi o se davvero quello che avevo conosciuto, vissuto e spiegato era così complesso ed esagerato da sembrare impossibile. Invece, quello che avevo raccontato non era un fumetto. Modi, cifre, metodi, passaggi, insomma un sistema, quella fase torbida della politica che ti viene spiegata solo quando arrivi ad un certo livello. E io, scrive Fiorito, ci sono cascato dentro intero con tutti i miei 100 e passa chili e i miei 27.000 voti. Così la lettera del Batman di Anagni, così soprannominato in senso parodistico, perché un giorno nella sua città lo videro cadere in sella a una moto che stava ferma. Fiorito, si sa, ha da subito ritenuto di essere stato usato all'occorrenza come capro espiatorio e per questo ha scalciato, puntando il dito, contro molti compagni di partito. Ecco dunque lettere dal carcere, ma dice racconterò tutto la complessa vita dell'attività politica, ma sicuramente Fiorito un posto se lo è ritagliato in questo 2012. Abbiamo fatto intanto le 7:45, tra qualche istante tempo di sentire allora come vanno le cose sulle strade italiane. 24 mattino. In questo lunedì 31 dicembre vi segnalo anche il grazie di Pubblico a tutta pagina. La prima vita di Pubblico finisce qui in attesa di poter risorgere. Come nelle favole vi raccontiamo qualcosa di quello che abbiamo provato a fare e il perché. Insomma, l'avventura del quotidiano diretto da Luca Telese annuncia con questa edizione di fine anno la sua chiusura, fa un bilancio, dice, racconta in un ampio articolo i due o tre motivi perché un giornale progressista può chiudere in tempo di crisi e poi affida alla redazione il racconto in una sequenza di lettere, di articoli firmati appunto dalla redazione di Pubblico, il saluto ai lettori. La prima vita di Pubblico finisce dunque qui ed è il grazie a tutta pagina che oggi saluta la pubblicazione della testata del quotidiano diretto da Luca Telese. Ecco il bello delle primarie, 1 milione al voto, successo di giovani e donne, bene Bindi, Pollastrini e Damiano. Insomma, i nomi e le polemiche anche che si portano, che questi nomi si portano dietro, il rinnovamento, la sensazione diffusa che appunto non soprattutto quando legato a certi nomi, insomma Rosy Bindi era stata al centro di tante questioni, era stata addirittura il vero e proprio simbolo della campagna renziana per la rottamazione. Ecco, le primarie dunque portano aria nuova nelle liste del PD, così dice l'Unità, anche se molti storcono il naso. È un successo per le donne e per i giovani, riconferme solide per alcuni big, Rosy Bindi, Barbara Pollastrini, Cesare Damiano, più di 1 milione sono comunque andati ai seggi, questo è un fatto. Bene anche la consultazione di SEL, Olivieri vince in Toscana, attesa per i risultati della seconda tornata. E per quanto riguarda invece l'altra questione di cui abbiamo parlato, secondo l'Unità, e tocca a Casini fare l'avvocato di Monti. Ancora Maroni lancia, Tosi premier, Berlusconi resta solo. La rottura è ormai insanabile. Un Berlusconi senza freni al TG5, ma Maroni ormai lancia Tosi premier. E questo secondo il, appunto, il racconto di oggi dell'Unità. Nessun segnale di disgelo nel giorno dopo il vertice milanese, che ha quasi archiviato l'alleanza PDL-Lega. La cosa fondamentale è che gli italiani non devono disperdere i voti sui piccoli partitini, che sono un intralcio per chi deve governare, fanno solo gli interessi dei loro liderini, ma devono scegliere i grandi partiti. Così il Cavaliere nel suo torrenziale intervento al TG5. Ecco qua, insomma, i temi scorrono, i grandi temi di questa giornata, e sicuramente tra questi articoli, insomma, tra questi spazi, trovano il loro giusto spazio quelli che sono poi le agende del tempo che è stato. E allora vi ricordo alcuni momenti che sono stati particolarmente significativi, che oggi i quotidiani raccolgono in varia forma. Ho cominciato prima citando proprio il 13 gennaio, il naufragio della Concordia. Il 13 gennaio la nave Costa Concordia naufraga a 500 metri al largo dell'isola del Giglio. L'incidente provoca 30 morti, 2 dispersi. Il comandante Francesco Schettino viene indagato con le accuse di naufragio, omicidio colposo plurimo, abbandono di nave in pericolo. E poi il 20 maggio il terremoto e la morte in Emilia, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto vengono colpite da un terremoto di magnitudo 6.0. L'epicentro è tra le province di Modena e Ferrara, la più violenta si verifica intorno alle 4 di mattina nella zona di Finale Emilia. Il bilancio è di 7 morti e 50 feriti. Poi arriva un tempo di una primavera estate inglese, i 60 anni della regina Elisabetta, che incoronano anche l'estate dei giochi olimpici londinesi. Insomma, un'annata davvero da ricordare per la casa reale inglese. E dunque il giubileo, i 60 anni di Elisabetta II, vengono inseriti tra i fatti da ricordare di questo 2012, così come, ed è il 4 luglio, si parla di particella di Dio. Gli scienziati del CERN di Ginevra annunciano la scoperta del bosone di Higgs, la particella di Dio responsabile della nascita della materia, così come noi la conosciamo, era stata ipotizzata soltanto teoricamente, ma ora arriva alla prova sperimentale. Ecco, di questo parleremo più tardi. Abbiamo invitato un astrofisico che, come dire, si è impegnato a fare capire a tutti noi quello che ai più di noi appare davvero difficile cogliere, capire. Certo, una grande scoperta, macchine enormi, investimenti importanti, e più tardi allora ci aiuterà a capire il perché questa scoperta scientifica entra al centro dei grandi fatti non solo del 2012, ma si parla appunto di scoperta scientifica del secolo. Questo era il 4 luglio. E poi la memoria ci riporta invece al 1 marzo, e quindi facciamo un passo indietro. Per la musica, la scomparsa di Lucio Dalla, credo che anche questo meriti per tanti italiani un posto in questa memoria. Ma eravamo arrivati dunque al 4 di luglio, proseguiamo il 29 ottobre, siamo già in pieno nella campagna presidenziale americano. Invece, a pochi giorni prima del voto, arriva imprevisto l'uragano Sandy, il ciclone post-tropicale che si abbatte sulla costa orientale degli Stati Uniti, uccide 253 persone, devasta New York e il New Jersey, provoca danni per 65 milioni miliardi di dollari. Se ne è parlato moltissimo, in che modo questo condiziona o meno la campagna elettorale. Sta di fatto che il 6 novembre, il voto, il popolo americano si esprime, dunque Obama rimane alla Casa Bianca, viene rieletto. Il suo duello elettorale con il repubblicano Mitt Romney è vinto con una campagna che è più emotiva che strategica, a cominciare dall'impiego di Bruce Springsteen nella fase finale con lui sul palco. Questo a novembre. Del presidente degli Stati Uniti parleremo ancora più tardi, abbiamo anticipato, parleremo e ci occuperemo di fiscal cliff. Poi il 16 dicembre invece un'altra pagina nera per gli Stati Uniti, la strage dei bambini di Newtown nel Connecticut. Il ventenne Adam Lanza uccide 20 bambini, 6 insegnanti, in una scuola della cittadina. Naturalmente ciascuno, come dire, può costruire, ricostruire i fatti di questo 2012, quelli che vi abbiamo citato, facendo anche una sintesi, attingendo alle varie testate. Sono solo alcuni, ma sicuramente sono parte dei fatti che hanno raccontato il 2012. Eccoci qua dunque, siamo arrivati alla conclusione. Tra qualche momento, tra politica, racconti e viaggi, vi segnalo anche un'avventura. Mi piace, come dire, sottolineare come a questo capolinea dell'anno di fatto non sia altro che l'ennesimo inizio. Così oggi sul Messaggero c'è un artista, c'è un regista come Muccino che dice che veramente spezza una lancia per il futuro e l'ottimismo quando dice il 2013 dipende da noi, basta con le insicurezze. Firmato Gabriele Muccino, e dice tutto il bene che verrà nel 2013 verrà se saremo noi e solo noi a mettere tutte le nostre possibili energie dove avremmo voluto metterle da anni e mai siamo stati coraggiosi abbastanza da farli. Il mondo è energia in movimento 24 ore su 24. Uno che di sicuro da sempre mette la sua energia in movimento è un grande velista, mi riferisco a Giovanni Soldini. Oggi l'attesa, come dire, il via, lo start alla sua incredibile corsa. Soldini parte, due oceani per un record, dunque pronto a salpare da New York per raggiungere San Francisco lungo quella che viene definita la rotta dell'oro. Rotta dell'oro perché il riferimento è alla generazione dei Jack London che andavano appunto sulla West Coast per diventare possibilmente ricchi con le miniere. Bene, invece Soldini e il suo equipaggio prendono largo per cercare di battere uno dei record più longevi della vela, quello del navigatore Yves Parlier, che nel 98 impiegò 57 giorni, 3 ore e 2 minuti per coprire le 13.225 miglia di onde correnti che separano New York da San Francisco, passando controvento per Capo Horn. Ecco, questa è l'avventura di un italiano, di mondo, come potremmo dire, che a cui non possiamo naturalmente che augurare tutta la fortuna per questa sua grande sfida. E con questo abbiamo chiuso la nostra prima parte. Noi ci risentiamo a partire dalle 8:15 circa. Adesso subito gli aggiornamenti da GR24. Più tardi.